Smart City, la città intelligente. Buonasera, buonasera e soprattutto buon anno da Maurizio Melis. Riprendiamo questa sera con le nuove puntate di Smart City dopo la pausa natalizia. Torniamo a parlare di illuminazione stradale, settore che si sta dimostrando molto vivace in questa partita delle Smart City, dato che riesce ad unire risparmio energetico e infrastrutturazione intelligente. Grazie ad una tecnologia che si chiama onde convogliate, ne abbiamo già parlato, si possono infatti trasmettere dati sugli stessi cavi sui quali scorre l'energia elettrica che serve per accendere, per alimentare i lampioni. Così facendo i lampioni diventano intelligenti, nel senso che oltre a garantire un risparmio sul consumo dell'energia elettrica, diventano i nodi di una rete di servizi e di sensori. Sorveglianza, distribuzione di informazioni relative ai mezzi pubblici, rilevamento del traffico, degli inquinanti, la ricarica dei veicoli elettrici, l'accesso a internet, tutto questo può passare attraverso questi lampioni intelligenti. Si tratta di una delle tecnologie di maggiore successo tra quante si propongono sotto il segno della Smart City, e recentemente ci sono stati due annunci da parte di aziende italiane che davvero ormai ci parlano di un settore giunto definitivamente alla maturità. Il primo annuncio è di Enel Sole, che da alcuni anni spopola con Archilede, un lampione a LED intelligente che nella sua prima versione è già comparso in 1800 comuni italiani. Ad Ecomondo Enel Sole ha presentato il nuovo Archilede, con cui ha illuminato e dotato di connessione Wi-Fi un padiglione della fiera di Rimini. È lì che ho incontrato a suo tempo Emanuele Sguazzi, responsabile commerciale di Enel Sole, al quale ho chiesto di spiegare quali passi avanti erano stati fatti rispetto alle prestazioni del modello precedente. Sentiamo. Diciamo che questo prodotto è un'evoluzione di un prodotto precedente. La grossa differenza è che ha un incremento di risparmio energetico del 25% confronto alla versione precedente. Quindi se prendo una lampada al mercurio da 100-150 watt, vecchi modelli bianchi che si trovano per strada, questo consuma l'80% in meno. E questo incremento del 25% da cosa è derivato? È derivato da un sistema di alimentazione studiato appositamente e da un sistema di ottica particolare. Abbiamo ridotto le potenze e aumentato la possibilità di illuminare in maniera, diciamo così, molto uguale su tutta la strada. Ogni LED, invece di illuminare un piccolo pezzettino, e ogni LED illumina il suo, ogni LED illumina tutta la superficie e viene un risultato più uniforme. Uno dei, per esempio, degli aspetti che è stato criticato con la prima generazione di tecnologia LED era la qualità della luce. C'era molto blu, per esempio, che tra l'altro che ha problemi ai soggetti anziani, interferisce con la catarata, col ciclo della melatonina, eccetera, eccetera. Qui ci sono dei passi avanti anche su questo? Assolutamente sì, questa è un'apparecchiatura da 4000 gradi Kelvin, le precedenti erano da 6000, quindi è un'apparecchiatura meno impattante dal punto di vista del bianco, è molto, molto meno bianco delle apparecchiature precedenti, e questo è andato anche in funzione dei suggerimenti che ci ha dato il mercato. Il mercato spinge a ridurre i gradi Kelvin un po' a scapito dell'efficienza energetica. Qui abbiamo voluto coniugare gradi Kelvin 4000 con efficienza energetica maggiorata. Torniamo in studio e diamo il benvenuto all'ospite in linea con noi questa sera, Raffaele Villa, direttore marketing di Umpi. Buonasera Villa. Buonasera a tutti. Dunque, Umpi è un'azienda specializzata proprio in questi sistemi a onde convogliate di cui abbiamo parlato, che è divenuta famosa, diciamo così, tra gli addetti ai lavori per un sistema che si chiama Minos System ed è una specie di scatoletta che si applica ai lampioni già esistenti e che appunto li rende intelligenti. Allora, Villa, qual è per il vostro mercato, mi domandavo questo, il fattore trainante, se è quello legato al risparmio energetico o invece all'abilitazione di questi servizi innovativi? Ma sicuramente la città ha bisogno di servizi, l'elemento trainante è appunto la possibilità di trasformare e sfruttare al meglio le proprie reti per caricare di servizi a valore aggiunto. Il risparmio energetico è sicuramente la base, che è il motore che dà vita un po' alla crescita di questi servizi, ma la possibilità di implementare nella propria città, laddove serve, un servizio piuttosto che l'altro, quindi la flessibilità e la adattabilità, cioè la compatibilità su tutto quello che è il parco esistente degli impianti, ha reso la tecnologia appunto a onde convogliate sbagliate, una tecnologia che permette, soprattutto in tempi di spending review, di appunto di prendere due piccioni con una fava. Diciamo insomma che se l'elemento trainante sono i servizi, l'elemento abilitante è risparmio energetico, perché consente di far tornare i conti. E qui arriviamo alla seconda domanda che volevo farle, perché recentemente voi avete annunciato un accordo insieme a DBM e a Unicredit. Ecco, finalmente insomma la presenza di una banca in questo terzetto, e quindi la presenza di strumenti finanziari già in qualche modo impacchettati, testimonia che finalmente siamo di fronte a qualcosa di consolidato, che viene percepito come bancabile, quindi molto solido. Perché 2 anni fa non c'era un accordo di questo genere? Cos'è cambiato? È cambiato il modo in cui la banca si affaccia al mondo delle smart city, nel senso che prima la possibilità di garantire nel tempo i risparmi non era così consolidata come lo è in questo momento. Quindi siccome prendiamo in considerazione un periodo di riferimento abbastanza lungo, si parla di 10 anni o 15 anni, la possibilità di avere l'affidabilità tecnologica in tutto questo periodo diventa un elemento fondamentale per avere la certezza del risparmio stesso, ma anche la possibilità di creare nuovi servizi che sono comunque un indotto ulteriore per il comune. Grazie Villa. Grazie, buona serata. Bene, ci fermiamo qui. Domani parleremo di efficienza nelle strutture ospedaliere, efficienza energetica, a partire da una proposta di ICAR per tagliare di 60 milioni i costi energetici degli ospedali senza dover investire un soldo. Appuntamento a domani.